lato lì dei tergi, se arriva le gocce sul parabrezza funzionano i tergi cristallo. Un'altra volta aveva fatto sta lampeggiata lì, ho detto porco Dio si è bruciato un faro, sai quando fa questa luce forte, no? Però poi rimanevano accesi, ho fatto boh, ma è una svista che ho visto io, magari mi sono sbagliato. Adesso entrando in galleria, come sono entrato, dopo un po' bam, la galleria è illuminata a giorno. Vergognati di dire porco Dio. Sentito, c'è anche un fedente tra di noi. C'è? A uno che ha detto vergogna. Io ho lo squarcio in basso, non sento nessuno. Ma ce n'è uno di qua, l'ho già sentito anche altre volte che parla, boh. Ah, ci sarà qualcuno che ha il CB in casa, qualche deficiente che non sa cosa fare, si mette lì nelle frequenze per sentire e parlare. Voilà. Certo che per sentire te che non fai altro che bestemmiare Dio, vergognati. Hai sentito adesso? No, negativo, cosa ha detto? Che ti devi vergognare che dici le parolacce. Ah, positivo, positivo. Ma lui ne dice una più grossa di parolacce, quella che uno non si fa i cazzi suoi, quella è molto più grossa. Io con le giusi come te non ci parlo. A chi non stessi da mezza di guglioni, da chissà modulazioni, cacigato! E catinna a casa, guglioni! Guarda lì, Raffami, che vuole il coso, 190, 48. Dio, hai visto lì che è concessionaria? Diglielo a Simone, va, che vuol fare il bilico. Capo. Questa si chiama la Nurra, questa è la Nurra della Nurra.